Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. È ormai questione di giorni e se il governo riuscirà a rispettare la tabella di marcia che si è dato, saranno finalmente varati i tanto attesi decreti attuativi necessari per, così dire, a dare corpo al decreto legislativo rinnovabili dello scorso marzo, che appunto aveva bisogno di questi decreti attuativi per fissare concretamente le regole del gioco. Parliamo di rinnovabili, parliamo di efficienza energetica. Sono in molti soprattutto ad attendersi da questi decreti attuativi un impulso all'efficienza energetica, appunto, e alle rinnovabili termiche, che fin qui, noi l'abbiamo ripetuto mille volte a Mr. Kilowatt, hanno recitato la parte della Cenerentola nella partita dell'energia, nonostante sono probabilmente le risorse che hanno più da offrirci in generale. L'Associazione Amici della Terra è da alcuni anni una delle più attive su questo fronte, da 3 anni organizza una conferenza nazionale sull'efficienza e nel corso dell'ultima, che si è conclusa da poco, abbiamo parlato infatti del tema del recupero di calore, che è una vera e propria miniera. Ebbene, nel corso della conferenza però sono state anche analizzate le bozze dei decreti attuativi, quelle in circolazione, e ne sono uscite una serie di criticità e di raccomandazioni che vogliamo condividere questa sera con voi. Ne parliamo con il responsabile studi dell'Associazione Amici della Terra, Andrea Molocchi. Bentornato a Mr. Kilowatt. Grazie a tutti voi. Allora Molocchi, proviamo a ripercorrere rapidamente quelli che secondo voi sono i punti critici. Tanto per cominciare, solare termico, quindi l'acqua calda sanitaria prodotta con i pannelli solari termici, appunto. Questo sicuramente è il grande problema che va affrontato nel panorama, insomma, delle tecnologie a rinnovabili termiche in Italia. Perché è così importante il solare termico? Perché a nostro parere è l'intervento guida per tutti gli interventi di efficienza energetica in una casa. Si parte dal solare termico per dare l'opportunità di fare in maniera integrata gli interventi di impiantistica o con tecnologie ausiliare come le pompe di calore e le caldaie a condensazione, e quegli interventi che riguardano invece l'impiantistica all'interno della casa. Se non si fa il solare termico è molto difficile che si riesca poi a intervenire all'interno di una casa. Anche perché, ricordiamolo, tanto male non fa, bisogna sempre cercare di intervenire in modo integrato quando si fanno dei miglioramenti di tipo energetico. Difficilmente sì. Una sola tecnologia o una sola soluzione risolve tutto. Normalmente è il mix di soluzioni adeguate che messe insieme bene determina una specie di effetto sinergico, per cui il risultato è più della somma delle parti, vero? Assolutamente sì, soltanto che c'è questo. E qual problema? È il problema allora? Il tetto, ecco. Il tetto è uno, e se i progettisti, per ragioni di convenienza economica, preferiscono installare un impianto di solare fotovoltaico per produrre energia elettrica, non si fa quel solare termico che è l'anello di partenza con cui si interviene per fare efficienza energetica negli edifici. Insomma, voi dite che oggi le condizioni per fare questo non ci sono. E non ci sono, e purtroppo rischiano di non esserci anche nel prossimo futuro, e noi abbiamo evidenziato che il nuovo la bozza che circola praticamente consentirà di recuperare sui costi del solare termico solamente per il 20-30%, quando invece nel caso del fotovoltaico questi costi sono ampiamente recuperati, addirittura c'è un profitto per l'utente. Se non si ristabilisce parità di trattamento, ovviamente al progettista continuerà a convenire di installare il fotovoltaico sull'unico tetto a disposizione. Insomma, voi dite che anche nelle bozze in circolazione questo problema non viene superato, e anzi forse addirittura va peggio di prima, perché prima almeno il 55%, che però insomma è stato confermato, quindi questo dovrebbe esserci, no? Per il solare termico. Comunque, il problema di fondo, voi dite, è questo qua: bisogna evitare di favorire alcune fonti rispetto ad altre. Finora è stato favorito il fotovoltaico. Lo stesso problema, quindi, più o meno è l'origine della criticità che segnalate sul tema invece delle pompe di calore. Certamente. Ma il punto è che ovviamente non si può pensare di incentivare tutte le tecnologie come il fotovoltaico. Ci si potrebbe però accontentare di non instaurare delle discriminazioni rispetto alle cosiddette rinnovabili elettriche, quindi includerei non solo il fotovoltaico ma anche l'eolico e così via, per le quali il periodo di incentivazione corrisponde alla vita tecnica della tecnologia, quindi anche 20-30 anni, e non si capisce perché nel caso delle pompe di calore invece queste bozze di decreti che circolano parlano di 5 anni, quando almeno arrivare a 10 sarebbe auspicabile. Quindi stiamo parlando del conto energia termico, cioè del fatto che venga riconosciuto a chi utilizza una pompa di calore un incentivo per la quota di energia rinnovabile che produce, cioè quella rubata, per così dire, all'acqua di una falda piuttosto che all'atmosfera. E questo incentivo viene riconosciuto solo per 5 anni, mentre la pompa di calore dura 20 anni. Sì, ovviamente si tratta ancora di bozze, noi non ci specchiamo che questo sia il risultato finale, vorremmo vorreste anche che non lo fosse, insomma. Proprio per evitare che questo accada. Quindi ci auguriamo che questo punto del periodo di vita su cui si gode del beneficio incentivante possa essere esteso almeno a 10 anni. Altro capitolo che voi aprite è quello della comunicazione. Non se ne fa. Sull'efficienza energetica praticamente non si fa comunicazione. Ma non si fa comunicazione anche perché mancano le risorse pubbliche che possano supportarla. Quello che noi proponiamo è diamo un minimo di risorse per fare informazione sull'efficienza energetica, perché erogando risorse sull'informazione è possibile in realtà risparmiare sugli incentivi. Non dimentichiamoci mai che l'efficienza energetica nella maggior parte dei casi è già una scelta conveniente, ma che non viene fatta per dei problemi anche di tipo informativo. Grazie Andrea Molocchi. Grazie a voi. Per stasera ci fermiamo qui, l'appuntamento è per domani. Buona serata.